Blau asca di un incidente, mani saldi. Gura e ghinghi nuena la spaldi. Vista per pazza lia, diot pure saldi. Garaglia na in bag beo ginito in bildu. Mughi e sine da condena, e casa mica tu. Papà ti ha una scai, ricarunza mil dua da radioeta. Saspi si den zu licca tu gerostic. Oi noch di abisi da oi nota sembat. Guda se lai e tancia tu le po. Rai no go pu barrican. Gorda e soldado e ci tu e salda di un ciompasso pisti. Pista vai no a tala che è sauc. Badu su che non sa. Basta sicurenza in sauc. Vem balauc. Li oi e sus qua e c'hai. Sai e falta cure ya. Dena dene an. Hauci tai hauci. Hala di noa. Pali mi zico che te che ta rapate caro. Migos clodo rempi cogo druia c'ha la parta. Pace sa la parta. Ma nunca se ne ritmo a parta. Asca. Tashunari. Show. Hapateka. Hapateka. Hapateka. Hapateka. Hapateka. Hapateka. Hapateka. Hapateka. Hapateka. Hapateka. Hapateka. Hapateka. Hapateka. Hapateka. Hapateka. Hapateka. Hapateka. Hapateka. Hapateka. Zakiak ez gira berean elitearen azkuntza aizi eta kasu berenean haien basa aizia haiek bai piztiak baino piztiagoa auzo batek ezan zautan txikia ez duk sekulan aski goizkesatzen ala nola abereak ez gira baizik eta eguzki perdearen za txi, txi, ha dam dam digi digi digi dam digi digi dam dam digi dam digi digi dam dam dam digi digi digi dam